La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. Messaggio nella bottiglia. Sono innamorata di un altro uomo, ma non ho tradito mio marito perché fra noi non c'è stato neanche un bacio. Però lo penso istante per istante. Beh, scusa, in fin dei conti sarebbe stato meglio se ci fosse stato qualcosa, nel senso che intendi tu, perché tutta la carnalità del mondo non vale i pensieri che tu gli dedichi, perché sai, il tradimento non è mica sempre toccarsi. E allora ti voglio raccontare questa storia della principessa di Cleve. Siamo alla corrottissima corte di Caterina de' Medici, dove lo stesso sovrano Enrico II e Caterina vivono in una trinità adultera con Diane di Poitiers, e tutto è permesso, è una corte estremamente libera. E però c'è una giovane sposa che, contrariamente all'uso della corte, vuole restare fedele a suo marito e non bada alle tentazioni, è corteggiatissima, ma lei non dà considerazione a nessuno. Lei è giovane e bellissima, suo marito è giovane e bellissimo, è innamorato pazzo di lei. Lei non è proprio innamorata, non lo ama. Come dice la moglie di Fantozzi, lo stima. Lo stima, però a un certo punto arriva l'amore. Arriva a corte il duca di Nemours, l'uomo più affascinante di Francia, l'uomo che tutte le donne vorrebbero. E lui si innamora di lei, e anche lei. La principessa si innamora anche lei del duca di Nemours e si sente perduta, perché non vuole cedere a questa passione. E allora trova un trucco per resistere. E cosa fa? Confessa tutto al marito. Confessa tutto al marito, gli dice che è innamorata dell'altro ma che non vuole tradirlo. Figuriamoci, questo giovane marito, nel pieno della sua passione, non è per niente lusingato dalla confidenza crudele di sua moglie. E impazzisce di gelosia. Impazzisce di gelosia per un amore non consumato e quindi ancora più forte. Ma che è successo? Il duca di Nemours, che la segue sempre, non ascoltato, nascosto, ha ascoltato la confessione della moglie al marito. Quindi, altro che salvaguardare la sua virtù, adesso l'amante è avvertito e quindi è ancora più deciso nel tentare la conquista. Lui, da seduttore, diventa monaco. A corte dà scandalo col suo comportamento improvvisamente casto, non guarda più nessuna, addirittura rifiuta il matrimonio con Elisabetta d'Inghilterra, che lo vorrebbe come marito, e dimentica il flirt con Maria Stuarda, e da lei manca un bacio. Anzi, la principessa, per sfuggire a questa passione che evidentemente la divora, scappa in campagna, va nella casa del marito in campagna per non incontrarlo nemmeno per caso il conte di Nemours. Ma il conte di Nemours la segue. Scavalca il muro, pensando di farsi vivo, ma poi gode talmente tanto a sentire lei che vaga per le stanze, per il giardino, invocando il suo nome, parlandogli d'amore, si appaga di questa dichiarazione d'amore e non si fa vedere. Però intanto anche il marito, che non si fida per niente delle promesse di fedeltà della moglie, ha mandato una spia. E la spia riferisce quello che ha visto. Ovvero riferisce che il conte di Nemours ha scavalcato il muro e che è stato 2 giorni in quella casa. Neanche la spia sa che il duca e la principessa di Cleve non si sono mai incontrati. Quando il marito viene a sapere questo, cade ammalato, fulminato proprio, e in 3 giorni muore. Lei piange, si dispera. Mentre sta per morire, il giovane marito dice alla moglie: «Signora, versate molte lacrime per una morte che siete stata voi a provocare». Allora, però, il marito è morto. Adesso lei è vedova. Lei e il duca di Nemours sono innamorati pazzi, quindi sarebbe nella natura delle cose che, finito il tempo del lutto, loro due si sposassero. Lei si rifiuta e dice: no, mio marito è morto per questa cosa e quindi io non posso assolutamente sposarvi. E si chiude in convento. Ora, vediamo questa donna. È una scusa. Questa cosa del marito è una scusa. Il motivo vero è che lei teme la concretezza dell'amore. Lei teme la stanchezza, la gelosia, lei teme la realtà dei corpi. Lei teme la delusione. Lei teme, infatti si dice, consumare l'amore. E quindi quando una cosa si consuma magari non c'è più. E si ritira in convento per questo. Una maledetta civetta. Una maledetta allumeuse. Sotto il pretesto della virtù, lei vuole rendere eterna la passione di lui. Lasciandola insoddisfatta, si vuole rendere indimenticabile. E quindi distrugge tre vite per non saperne vivere neanche una. Perché dopo che il marito è morto, anche lei morirà di dolore e anche il duca di Nemours. E lei muore in odore di santità con l'aureola del più prestigioso rifiuto. Il suo orgoglio è soddisfatto. Ha avuto quell'uomo che tutte le volevano, è stata preferita a due regine e gli ha detto di no. Il suo narcisismo trionfa. Insomma, anche la castità è una bella molestia. Nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Gentile Barbara, forse lei è in grado di spiegarmi l'oscuro motivo per il quale mi sono innamorata di un quasi sessantenne, io ne ho 36, che non mi considera, che ha scambiato con me qualche seduta a letto. Sono la classica sedotta e quasi abbandonata. L'amore da parte mia è andato aumentando quasi con disprezzo da parte di entrambi per il semplice fatto che nessuno dei due è in grado di soffocare questo profondo sentimento. Lui legato solo alla sua eterna malattia cancerogena, io legata a fare da croce rossina a distanza. Vederci in modo sporadico è quasi allettante perché così rende più intenso il rapporto. Non ha altre, perché il cuore lo dedica solo alla gestione della malattia e dell'attività lavorativa. Non sono stata in grado di subire i suoi andare e venire. Ho dovuto cercare affetto altrove, non per vendetta, ma proprio perché avevo estremo bisogno di una stabilità. Sbagliatissimo, perché il chiodo schiacciachiodo è servito solo a fare danni a quei poveri ignari. Ho specificato la nostra differenza d'età non perché io sia in cerca di un padre, il mio è stato all'altezza del ruolo, ma perché avevo la convinzione che un sessantenne fosse una guida solida. Ed invece mi sono trovata io a fare da bastone per ciechi a lui, perché ha ancora ragionamenti adolescenziali. Fino a qualche anno fa cercavo l'amore come un rabdomante. Ora ho capito che è fatica sprecata. L'amore non alberga nel mio cuore. Forse lei è in grado di somministrarmi una formula per dimenticarlo. In tal caso, la prego di comunicarmela. Gabriella. Beh, questa formula non ce l'ha nemmeno il mago Telma. Neanche quel famoso uomo politico che ha osato promettere che sconfiggerà il cancro entro il 2013 con un cinismo sfrontato, prendendosi gioco di tutti quelli che lo soffrono sulla propria persona e dei loro parenti. Beh, nemmeno questo campione dell'impudenza è arrivato a promettere l'elisir d'amore e ancor meno l'elisir del disamore. Qui, in questa corrispondenza del Faro, ogni tanto si rifugia una ragazza innamorata di qualche vecchiaccio anaffettivo e ognuna è partita con la stessa illusione di trovare una guida, la saggezza della vecchiaia. State fresche. L'egoismo dei vecchi è totale, più di quello dei giovani, che tutto dire. Questo non è un amore, è una tigna. È un modo nevrotico per disperdere le forze. Mi piace quella tua frase, l'amore non abita più qui. Esistono i vampiri, ma esiste anche chi vuole essere succhiato. Non c'è niente di male, guarda Gabriella, basta saperlo. Ecco, specchiati, guardati i segni dei denti sul collo. Se questo ti piace più di tutto, inutile lottare. Vai così, che vai bene, è la tua strada. Ho 20 anni, sto vivendo 2 vite. Lui era folle di gelosia, scenate su scenate, finché tornava in sé e tutto al suo posto. Io però mi sono stufata dei suoi continui infondati sospetti e l'ho lasciato, ma non per spaventarmi come faceva lui, sul serio. Poi però ci sono tornata. Lui diceva: «Non riesco a perdonarti», non aveva più fiducia in me e ho avuto il torto di accettare i suoi rimproveri, di essere il suo fazzoletto, il suo zerbino. In questo inferno sono rimasta incinta e ho dovuto abortire. Lui quel giorno è andato al mare. L'ho squallidamente cercato. Questa interruzione di gravidanza mi è costata depressione, incubi. Mentre lui continuava a farsi scudo della sua mancanza di fiducia e fra litigate e tragedie siamo ancora tornati insieme. Mi ha tradita, l'ho perdonato e sono qui, prigioniera di questo rapporto. L'ho tradito anch'io con uno che mi piace tanto, al quale ne ho combinate di tutti i colori, l'ho fatto ingelosire, ma lui è sempre tornato. E sai perché? Solo per la nostra intesa sessuale. Un altro rapporto di merda. Questo qui però, quando lo vedo, mi fa stare bene. Gloop nello stomaco, stelle negli occhi. Forse sto così bene con lui perché ogni volta che lo vedo mi sembra di farla pagare al mio ragazzo. Se ti parlassi di me, dopo 3 parole comincerei a piangere. Dove sono finita? Dove devo guardare? Annalisa. Ma mi chiedi dove guardare? Io direi come prima cosa allo specchio. E vedrai una ragazza distrutta da una tragedia inutile. Tu vedrai una giovane pazza che si sta rovinando la vita senza nessuna ragione. Ma non dire balle, qui nessuno ha perdonato nessuno. E state lì applicati alla tortura reciproca. Basta. Ma cosa stai lì a ruminare questa storia? Io tradisco te, tu tradisci me, io ritradisco te. Quando ho abortito sei andato al mare. Però intanto la faccia tua, io ho l'amante e ti metto le corna. Ma ti sembra una trama possibile per una vita? È noiosa anche come commedia. Ma basta, è il passato remoto. E perché dici che quello con l'altro è un rapporto di merda? Se ti fa star bene, se ti fa stare allegra. Scrivi tu, mi mette le stelle negli occhi. La verità, Annalisa, è che tu, nell'elemento appena citato, ci sei stata troppo a lungo col tuo ragazzo e adesso non sai nemmeno distinguere una storia ignobile da una storia lieta. In fondo ti piace starci in questo elemento. Perché sprechi gli incontri col nuovo per farla pagare il tuo ragazzo? Che noia. Solo conti di vendetta. E l'erotismo, i baci, le risate che ti fai con lui? Dove sei finita, mi chiedi? Sei finita nella più stupida delle prigioni, dove ti figuri debole, infelice, senza uscita, mentre sei solo senza chiarezza e senza coraggio. Guarda che c'è una porta in questa galera. La apri e vai. Ma adesso, subito. Qui capitaneria di porto, è in linea un certo Alessandro Fullin che chiede di Barbara Alberti. Alessandro Fullin, beh, questa è una fortuna, perché devo dire che sentirlo stare di buon umore è tutt'uno. Alessandro, sei veramente tu? Ma certo che sono io, Barbara. So che eri in cima a un faro, ho detto, allora della serie ti raggiungo almeno con una telefonata. Io sapevo che tu eri sparito in Marocco e sono contento che tu sia tornato. Lo so, sono andato in Marocco, ma ahimè sono tornato. Si parte, ma si torna, cara Barbara. Ecco, io sono rimasta incantata dalla scoperta di Alessandro Fullin, che peraltro tutti già conoscevano da prima di me. E lo so, ma vedere il mio décolleté dal vero è tutt'altra cosa. Certo. No, ma poi ho studiato, sono andata a guardare, ho visto che hai fatto tantissime cose, radiofoniche, televisive, Buona Fortuna, Comedy Lab, Nientology, Zelig Gay. E poi ti ho visto sicuramente a Zelig nel personaggio della dottoressa Fullin, esperta di lingua tuscolana. Ma Fullin si nasce o si diventa? Tu eri Fullin già da ragazzino. Ah sì, era terribile. Cioè, nel senso, immagina che io ho questa voce terrificante, che è talmente alta che secondo me una parte delle bande sonore non è udito dall'orecchio umano, ma dei cani, che ridono tantissimo quando mi vedono. Secondo me loro sentono delle cose che gli umani non possono sentire. E quindi io, quando andavo in chiesa e cantavo, cioè vibravano le vetrate, perché ho avuto sempre questa voce terrificante. E quindi immagina dell'essere con me da ragazzino. Non ci mi si poteva guardare. Quando io lo dico sempre, invidio molto gli altri gay che a un certo punto fanno coming out, cioè dicono agli altri di essere gay, ma io non ci sono mai riuscito, perché l'hanno sempre capito tutti, cioè a 100 metri di distanza. E l'arte quando è cominciata? Beh, da subito, perché io ho tentato di vincere dei concorsi, di fare delle cose normali nella vita, ho fallito tutto. Non sono mai riuscito a fare, non so, la bidella, cioè, no? Io avrei fatto una cosa umile, Mi sarebbe piaciuto, non so, stare della serie nelle sale, sai quelle che guardano i quadri? Ecco, io davanti, non so, a delle arance di Cézanne per tutta la vita, in un angolo, no? Ecco, non sono mai riuscita a trovare un lavoro normale, per cui alla fine faccio questo mestiere perché sono sempre stato tangente rispetto al mondo, non ho trovato facilmente il mio posto e tuttora non lo trovo facilmente, nel senso che forse è un po' il destino degli artisti, che siamo sempre un po', no, in prestito nei luoghi. Senti, certo. è un caso se sulla, nella copertina del tuo libro pubblicato da Kowalski, Ho molto tempo dopo di te, questa vezzosa signorina con della frutta in testa e delle piume, ti somiglia un po'? No, ma è il disegno di Giovanni Battistini, che è mio carissimo amico, e sono io con quella faccia così un po' a sprigna, o come mi hai detto tu in una lettera, sei la bruttina della classe, ma è vero. Ha detto che è la bruttina della scuola, dispettosa. Ecco, brava, la bruttina della scuola, hai capito? La bruttina della scuola, con quella ed essendo che io ho scarsissima fortuna nei sentimenti. Ah sì? Questo mi interessa molto. Non sei mai corrisposto? Io assolutamente sono solo nel modo più assoluto. Gli altri gay non sono neanche percepibili, sono come uno dei Fantastici Quattro, su La Donna Invisibile. Adesso mi sono fatto crescere i baffi perché mi diverto, perché allora quando vado in una discoteca con i baffi vengo percepito, ma scartato, però percepito. Che già mi diverte. No, la mia vita sentimentale è il deserto del Gobi, va bene così. Ma tu ti prendi delle cotte bestiali e le tieni per te? Ma le manifesti? Ma certo! Ma il poveretto che gli succede, lo sommergo di tutte le stupidaggini, capito, di fiori, certo, io sono un uomo all'antica, cioè aprire la porta della macchina, capito? E nessuno vuol giocare con te? Le scatole di cioccolatini a forma di cuore, po' caramelloso, devo dirti. Ti rendi insopportabile? Direi patetico, guarda, io trovo, vedendomi da fuori, direi, mi trovo patetico. Ma va bene è così? È strano, no? Sai perché? Perché c'è poi, in verità, in te anche una grande durezza. Sì. C'è una grandissima chiarezza del mondo e sei anche un intellettuale rigoroso. Quindi voglio dire, immaginavo invece che in amore fossi un demonio, nel senso che fossi un dominatore. No, assolutamente. Ma sai, secondo me ognuno ha la propria calma. Io, ad esempio, sono una persona che ha avuto la fortuna, ho fatto sempre dei grandi investimenti nell'amicizia. Nell'amicizia sono appassionata, faccio delle scenate tremende, sono gelosissimo. Faccio tutto quello che la gente fa in amore, io lo faccio nell'amicizia. Tu sei affascinante, voglio dire, e fai anche l'artista, ma non si innamorano di te vedendoti a teatro? No, assolutamente. Si innamorano delle donne di me, cosa che mi diverte molto. Ma non è mai successo? Non è mai successo? Che cosa? No, ho avuto un compagno per tanti anni. Sì, ma che qualcuno si pigli delle cotte bestiali, mai successo? Ma non... Una persona sì, con cui sono stato molti anni, è successo. E poi però, se ti devo dire che proprio bussano alla porta per entrare, no. Ma sai, secondo me, a seconda di che karma hai, se tu sei una persona che ha queste grandi amicizie, queste che vivi in maniera... passione, la passione amorosa, se non si è affacciata nella tua vita, secondo me un po' non si affaccerà mai, no? Sono quelle cose che le trovi nei libri, che scrivi, ma poi forse le vivi più lì che nella vita. Capitaneria di Porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre per dare la linea alla pubblicità. Riattiveremo il collegamento tra qualche minuto. La guardiana del faro. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Mi credevo innamoratissima di mio marito, finché un giorno incontro il marito di mia cognata. Ero piena di buste della spesa. Sotto casa passa lui, bello come un bronzo di Riace. Mi aiuta a portarle su. Gli offro un aperitivo. Mi si avvicina e mi ritrovo con la bocca attaccata alla sua. In un attimo eccoci nudi, abbiamo fatto l'amore come mai prima. Da quel momento, ogni volta che decidiamo di vederci, ci riusciamo. È sempre disponibile, gentile, ma soprattutto un toro a letto. Solo con lui riesco a essere felice. Aiutami ad uscire da questa storia. Ma va, ma quando mai ne vorresti uscire? Ci sei appena entrata e non ti pare vero? Hai appena infilato il binario 7 3/4 di una specie di Harry Potter del sesso. Tu non mi hai scritto per essere aiutata a troncarla questa storia, ma per issare sul carro di trionfo di una lettera l'arrivo, l'avvento del desiderio, il quale non chiede permesso né a te né a me e a quanto pare né a quei due traditi che sono tuo marito e la cognata. Qualsiasi consiglio sarebbe ridicolo, però c'ho un dubbio più che un sospetto. Ma perché il tuo indirizzo email ha un nome maschile? Non è che chi scrive è lui, il toro, per celebrare la sua toraggine? Cara Barbara, vorrei che per una volta tu accettassi il ruolo che normalmente è dei tuoi interlocutori, quello di analizzata giudicata. Nella puntata del 26 giugno scorso ho sentito improvvisamente come tutta la tua saggezza si sia infranta davanti al cane e a quella scritta all'ingresso di casa tua: cosa ne sai dell'amore finché non hai guardato negli occhi il cane che hai. Ma cara Barbara, qualsiasi cane del quale ne prenderai la cura ti guarderà con quegli occhi. Il suo istinto gli dice che senza di te non è nulla, che senza di te non potrà sopravvivere. Ma lo stesso discorso vale per gli uomini quando dicono: il mio amore per lei, lui, è così grande che non potrei vivere senza di lei, lui. Mi pare che gli psicologi siano unanimi nell'indicare questo sentimento come una dipendenza e non l'amore. L'amore del cane è un amore garantito al 100%. Non dobbiamo preoccuparci dei nostri difetti, del nostro aspetto o di migliorarci. Insomma, un amore a buon mercato o che ci siamo comperato, per usare le tue sagge parole, per pigrizia di immaginazione e di sentimento. Capovolgendo i ruoli, si può dire che anche Hitler era buono con il suo pastore tedesco. Insomma, definirei il cane per l'uomo con la parola usata da Freud, che pur aveva un cane, per definire tante compensazioni o risarcimenti che ci siamo creati nella vita. Una contentezza o sostituta, di scorta o di riserva. Sergio. Grazie Sergio per aver scritto. Però qui, ecco, ci scontriamo su una cosa fondamentale. Io non sono come te una devota del Vangelo freudiano e soprattutto del determinismo che si è portato dietro. Io credo che Freud sia un grande poeta, un magnifico visionario che merita un posto accanto a Rimbaud e a Proust. La colpa è di chi lo ha messo tra gli scienziati, perché qualsiasi interpretazione codificata, secondo me, è povera. È molto più piccola della complessità umana. E se davvero ci fossero dei codici fissi nel sogno, l'umanità non avrebbe mai inventato niente, perché tutto proviene dalla totale anarchia del sogno. E non esisterebbe la matematica, ci saremmo fermati all'aritmetica, se tutto fosse così meccanico. La divulgazione dell'interpretazione freudiana è diventata un codice di censura, il rovescio della punizione cattolica, è sempre colpa tua. L'inquisizione più arrogante perché vuole ridurti a schema. Che idea decifrare l'inconscio, sai Sergio, mi sembra proprio un ossimoro madornale. Ma questo per dirti che io voglio bene il mio cane e non mi chiedo se è una compensazione, perché è proprio a lui che voglio bene, con sto musetto da bastardo. È pure cattivo, sai. Come amo gli umani che ho intorno, se li amo. Non sono una vecchia col cane, che in sé peraltro sarebbe una grande circostanza poetica, ma io divido la vita con una tribù piena di affetti e non ho bisogno del cane per amare ed essere amata, ma sono ingorda. Voglio pure lui. Più amo e più sono amata e più rido e più vivo. Anche dal gatto del vicino, manco il nostro, ci viene a trovare e noi giù carezze. Poi sai, gli affetti, gli amori, ma persino i gesti di gentilezza tra sconosciuti sono tutti non una compensazione, come dici tu, con un linguaggio punitivo che sottende la mancanza, ma sono una ricompensa dell'essere umani, dell'essere mortali, dei sacrosanti versi di Quasimodo, di Salvatore Quasimodo: ognuno sta solo nel cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. E allora, in questa grande notte, se mi posso stringere anche a una creatura pelosa, oltre che a quelle glabre, Sergio, credimi, non mi basta mai. E ne provo una gioia semplice. Perché me la vuoi guastare? E poi non è vero, sai, che dei cani siamo sicuri al 100%. Io l'ho anche raccontato qui dal faro. Ma a me mi ha tradito pure il cane. Si era preso una sbandata per una signora polacca e per 3 anni non mi ha più guardato in faccia. Mi trafiggi quando parli di Hitler. Per una coincidenza che, quando l'ho saputa, sono rimasta malissimo, che la sua cagna si chiamava Blondie, come la mia, che si chiama Bionda, quella che mi ha tradito. Coincidenza, molto seccante. L'anno scorso in campagna mi sono affezionata a un'oca. Mi riconosceva. Quando mi vedeva, faceva qua, qua, e io le davo il gran turco. Dici che è grave, Sergio. In tuo onore leggerò un mio raccontino contro il determinismo psicoanalitico, tratto da un libro che deve ancora uscire con nottetempo, si chiama Amore il mese più crudele, e il titolo di questo raccontino è La redenzione del Minotauro. Aprite le finestre, stappate il vino. Non verranno più da Atene a Creta i giovinetti a farsi divorare dal mostro. L'incubo è finito. Finito il mito. Il Minotauro è guarito. Egli è così cambiato. Lo hanno curato, analizzato, perché mangiava 7 ragazzi e 7 ragazze ogni anno. E adesso è una persona risolta. Tempi moderni. Era della chiacchiera che tutto lenisce, tutto nasconde e sana. Garriscono le vele. Non più il legno dei giovinetti solca il mare. È lui che va da loro, invertendo la rotta. Creta, Atene. Ripulito, in barchetta a motore. E la sua testa di toro col cappello e i Ray-Ban sembra una testa d'uomo. Quasi, turista. Molto abbronzato, col naso largo, le grosse froge al posto delle comuni nari, frementi, mano a mano che la meta s'accosta. Per l'aria di mare, ben inteso, che lui ormai ogni istinto è domato. Ehi, dicono, il Minotauro ad Atene. Chiudete in casa i ragazzini! Ma no, lo sa che viene a fare? Teatro. Invece di mangiarseli come una volta, lo rappresentano. Consumano il rito di sangue sulla scena. Catarsi. Sublimazione. Così vanno oggi le cose. Ma veramente è che ai tempi di Aristotele, intanto di mezzo si è messa la psicoanalisi. Giulivo giunge al Pireo il mostro. Passa in rassegna i 14 ragazzi attori, come un saggio capocomico. Li fa scherzare con le corna, indossa l'abito di scena, gessato. Mentre si allestisce di buon umore lo spettacolo, non mancano a tratti le nostalgie. Il diverso recuperato di oggi ricorda quando era mostro. I fanciulli coronati di rose, rosse i fanciulli e le fanciulle bianche. In ginocchio davanti a lui, spietato, nella reggia di Cnosso. Sul muso divinamente orrendo c'era ancora l'impronta del dio che volle l'accoppiamento con la sua buona madre, Pasifae, la vacca, affettuosa licenza mitologica, scherzaccia sulla regina. Solitudine di uomo, malinconia di toro. Né ai tempi dello splendore gli era sufficiente consolazione quel pasto condito di pianto greco. La fanno lunga per un rito così lieto. Ciò che davvero gli piaceva era lo sguardo che gli adolescenti, dopo l'inchino, alzavano su di lui, pronti a qualsiasi complicità pur di essere risparmiati, sapendo che mai lo sarebbero stati. Quel matrimonio indissolubile, fedeltà e terrore. Quegli occhi sotto le rose gli promettevano l'assoluto e lo coglieva, divorandoli. Questi qui del teatro, per carità, perfetti, ma è un'altra cosa. La sua fama di cattivo li fa ridere. Fu così temibile un tempo che fra le quinte, mentre si preparano, ci prendono gusto a mortificarlo. Anche se non è merito loro che sia diventato civile, però gli viene un po' vigliaccamente da ridergli sul muso. Gli fanno piccoli dispetti, gli fanno le esclusioni che trapassano il cuore da compagnia teatrale, da banchi di scuola. E Minotauro sublima, sublima, sublima, come gli hanno insegnato durante l'analisi. Arriva lui, i ragazzi smettono di ridere. Con un'allegria che la crudeltà rende frizzante, comprano la pizza e se la mangiano chiuso in camerino, senza invitarlo. E lui sublima, sublima. Già sta arrivando il pubblico, meno male, farà un po' il miracolo della scena e sarà felice, ne avrebbe bisogno. Comincia, comincia! Analisti e psicoautorità, operatori culturali e parenti tutti, lì, attenti, battono le mani al levar del sipario. Vedano coi loro occhi cosa può la moderna terapia. L'attore mansueto, coi suoi occhi di toro, cerca di imitare l'antico furore. Però come lo fa bene? Così bene che i ragazzini coronati di finte rose bianco-rosse, per la prima volta, sebbene sia performance, tremano. È bello vedere dei ragazzi spaventati. Fa bene al suo antico cuore, brezza di mare e sogno, cielo terzo di Grecia. Ottimo il trucco scenico. Lui spalanca la bocca, si fa buio, e loro spariscono nella botola. Gli applausi cominciano dopo che ha finito di ingollarsi il primo, ma verso il tredicesimo è il delirio. E già i ragazzini usciti dalla botola si inchinano al pubblico in un educato balletto che fa contorno al mostro. mentre tocca all'ultimo, il più insolente, quello che, per un attimo, sembrò comprendere la sua disperazione. Una sera, dopo le prove, gli si era seduto accanto nello snack davanti al teatro. Erano soli. Il ragazzo prese in mano la zampa ben curata del mostro. Il Minotauro pianse, lacrime grosse come bottoni, e gli confidò: «Sai, sono sempre stato un adolescente timido». Si presentò alle prove il giorno dopo, il mostro, bello come uno sposo, col segreto d'avere un piccolo amico, e seppe che era stato tradito, che il ragazzino aveva riso delle sue confidenze con tutti. Gli venne in mente, mentre stava per far finta di mangiarselo, e gli uscì un tale ruggito che il ragazzo si spaventò davvero. E si sa, l'uomo è uomo, il dio dio, la bestia bestia, e davanti all'amore sono tutti uguali. Il Minotauro se lo pappa davvero. E prima che se ne accorgano, fila via con la sua barchetta a motore, imprendibile, al vento, più bello, senza cappello. Sì, sì, sì, il mangiato era stato classicamente odioso. Ma non fu la vendetta che lo spinse. Fu proprio il digiuno, la sua fame benedetta che s'era finalmente risvegliata, inutilmente accoppata dai dottori. Fila il Minotauro verso Creta, accolto in trionfo dai turisti, dichiarazione ai giornalisti. Com'era buono, scattante, insinuante, orribilmente giovane. E come si è serbato sensibile il mio stomaco in 4.000 anni. La prossima volta me li mangio tutti e se fanno i difficili vengo con l'esercito, chiede il giornalista. Ma è davvero la soddisfazione dello stomaco che le interessa? Egli alzò lo sguardo ceruleo, troppo innocente, e disse: no, signore, quello che davvero voglio con queste azioni estreme è salvare il mito. E già ne usciva, stupido, testone, bestia. Da eroe è intervistato. I dottori lo avevano proprio definitivamente fregato. Capitaneria di Porto, interrompiamo Barbara Alberti dal faro di Finisterre per dare la linea alle informazioni sul traffico in terraferma. Riattiveremo il collegamento tra qualche minuto. La guardiana del faro. Nel 1867 Dostoevskij corre per l'Europa inseguito dai debiti, in condizioni economiche sempre più povere e disperate. Lo vediamo a Ginevra, Milano e poi stabilmente a Firenze, dove finirà il grande romanzo che sta scrivendo, L'idiota, di cui prima di aver finito scriveva: «Da tempo mi tormentava un'idea, ma avevo paura a farne un romanzo, perché è un'idea troppo difficile. Quest'idea è raffigurare un uomo assolutamente buono. Niente, secondo me, può essere più difficile di questo». E invece il romanzo verrà alla luce, si chiamerà L'idiota. L'idiota è il principe Myshkin, un giovane che si è curato di epilessia in un villaggio svizzero e stava sempre in compagnia dei bambini finché torna a casa in Russia e qui starà sempre invece in compagnia degli adulti. Questo nuovo Cristo è semplicemente uno che dice sempre la verità. Grande rivoluzione in quella società, ma io credo in qualsiasi tipo di società. Lo trattano come uno sciocco, non si vergognano a compiere e a dire delle cose ignobili davanti a lui, come se non capisse. Ma le due donne protagoniste del romanzo si innamorano di lui. Se ne innamora Nastasia Filippovna, che è stata sedotta da ragazzina ed enfatizza la sua condizione di donna perduta, fa di questo il centro e la dannazione della sua vita, ma anche di chi la incontra. È stata sedotta, si considera degradata e vuol farla pagare a tutti. Poi alla fine Nastasia enfatizza, ma ha avuto solo un amante, il vecchio che l'ha sedotta. Con gli altri uomini si diverte a farli impazzire, ma sprezzantemente, come per vendetta, li tiene lontani dal suo letto. L'impetuosa Natasha sente la santità di Myshkin, che è il suo contrario, lei così contorta, così tortuosa. E lui si innamora anche, vorrebbe sposarla. Ma lei ha troppo orrore di sé per accettare, si detesta troppo. Intanto di Nastasia muore d'amore Rogojin. L'autore ce lo presenta nella prima pagina del romanzo insieme al principe, quando anche loro due faranno conoscenza. Ce lo descrive così, di bassa statura, adesso cito a memoria, ma più o meno così, sui 27 anni, capelli ricciuti, quasi neri, occhi pieni di fuoco, naso largo, schiacciato, zigomi forti, e soprattutto ti rimane impresso questo sorriso impertinente e ironico e quasi cattivo. Ed è l'opposto del giovane che gli è seduto di fronte, del principe Myshkin, questo giovane biondo, pallido, con un mantello svizzero. Basta questa descrizione a farlo un po' sempre fuori luogo. Rogojin lo ritroveremo poi nei fratelli Karamazov e Dmitri, come Rogojin matto, amante assoluto e sempre prossimo a uccidere l'amata, e come Dmitri votato alla propria rovina. Del principe si innamora anche Aglaia, la signorina per bene, di nobile famiglia, e lo manifesterà con dispetti atroci. Aglaia è bella, odiosa, si crede Dio in terra. È crudele come Anastasia, ma con più malignità. Il libro è un quartetto, i due giovani e le due ragazze. Rogojin ama il principe, lo ama come l'altra metà di sé, come la metà perduta, ma è sempre lì lì per ucciderlo. Infatti ci prova, e poi glielo dice in faccia. Con questa spudorata furia di confessione che hanno i personaggi di Dostoevsky, un po' come i napoletani, tutti in piazza, tutti l'hanno a sapere, tutti, tutti, non si tengono un pensiero per sé. Alla fine Nastasia Filippovna accetta di sposare Rogojin, ma come ultimo gesto autodistruttivo, giurando che si ucciderà subito dopo. Invece Rogojin fa prima di lei la coltella, subito dopo le nozze. Rogojin sarà arrestato. Il principe torna di corsa in Svizzera e rispetto alle complicazioni della vita sociale, l'epilessia gli parrà un paradiso. Il commento sull'idiota che vado a leggere è tratto da un mio libricino, piccolo piccolo, che si intitola Letture da treno, pubblicato da Nottetempo, e si rifà al prefinale, quando Myshkin va a casa di Rogojin e lui gli dice che ha ammazzato Anastasia. Che Anastasia è di là, sul letto, vestita da sposa, con una piccola macchia di sangue sul petto. E di questo si rallegrano entrambi, che non ci sia stato tanto sangue. E i loro gesti sono semplici, da fratelli, da amici che finalmente si ritrovano. Sembra proprio che l'intero romanzo sia costruito per quel finale, quando Rogojin e Myshkin dormono insieme, vicini, con Nastasia Filippovna nell'altra stanza, morta, finalmente quieta. Perché Nastasia era sublime, ma fastidiosa. Sempre quel suo teatro convulso, mai un istante di semplice tenerezza. Adesso è lì, ferma, e loro due gustano una tregua di perfetta infanzia, di omofilia sognante e ignara. È finita come doveva finire. Il demone selvaggio e il puro folle dividono il letto, ora che tutto tace. Le donne zitte finalmente. Ci è voluta una coltellata per mettere buona Anastasia, ma è stata ben spesa. Adesso il biondo e il bruno, il forsennato e il gentile, si stringono nel buio. Dolcezza da notte di pioggia, in soffitta. Tra bambini. Quante sventure e avventure nella lunga narrazione per arrivare a questo. Rogojin a un certo punto, con una cura da amante, riserva a sé il cuscino scomodo e lascia all'amico il cuscino morbido. Il mondo lo hanno chiuso fuori. Il mondo è un nemico. Il mondo farà domande sulla morta, vorrà portarla via. Vorrà infrangere questo paradiso oscuro. Il mondo va tenuto lontano, parlando piano, e infatti sussurrano. Non essere presi, questo è l'interesse comune. Eccoli Rogojin e Myshkin soli con Nastasia, il loro giocattolo troppo complicato. Nastasia ha rotto la carica e adesso non li spaventa più. Questo libro è tutto una guerra d'orgoglio fra donne, che oscura i maschi. Myshkin e Rogojin sono in fondo i finti protagonisti. In primo piano sempre ci sono le donne, Aglaia e Anastasia. Fra i maschi, l'amore. Fra le donne, il duello. E che donne! C'è una grande differenza tra la cieca misoginia di Tolstoi e l'omaggio alla donna che fa Dostoevsky, che è duro come una cartella clinica. Lui, alle ragazze diabolicamente superbe di buona famiglia come Aglaia, preferisce le puttane, non Myshkin, Dostoevsky, l'autore. E anche nei Karamazov. che sono le puttane mille volte più orgogliose delle donne per bene, ma ardite sul serio, pazze ma non nevrotiche, come Aglaia, che è insopportabile. Questa castità che la rende zitella a 20 anni, la sua meschinità feroce, dice una frase di una cattiveria inimmaginabile, se non forse da un maschio fatta dire ad una donna. Quando, parlando di Nastasia Filippovna, che è molto colta e lei è gelosa di questa cultura, lei commenta: ha letto troppo per una donna della sua condizione. Ovvero sia, alle donne perdute, per Aglaia non è concesso leggere, non è concesso sapere. Aglaia fisicamente è descritta come un cigno, con questo lungo collo, con questi occhioni, ma è cattiva come una vecchia. Le donne nell'Idiota sono tutte sterminate costruzioni della superbia. Poi mi chiedo, ma perché Rogojin, che appena te lo descrive, ti innamori, proprio ti innamori a vista, il lettore è subito suo? Perché non piace? Troppo sofisticate queste ragazze. Che siano perdute o illibate, vanno tutte pazze per il tirannico Hippolyte, il ragazzino odioso ma pallido, con quest'altro vantaggio per queste donne matte, che è un malato terminale. Queste ragazze vanno pazze per Mishkin, che è una chimera. Rogojin invece è un maschio all'antica, con la passione, col cuore, col pelo. Nessuno lo vuole, solo il principe. E lui, Mishkin, finalmente soli per una sola notte, prima dell'alba terribile che porta la realtà. Ma riusciranno a sfuggirle entrambi. È un falso finale tragico. In verità ci rende felici, perché Rogojin si chiuderà nel buio clemente della follia e Mishkin, l'idiota, dopo aver fatto una capatina fra quelli che idioti non sono, tornerà alla sua cara smemoratezza infantile. Il libro vuol dire solo questo: Dio ci salvi dagli umani. Di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.